il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Sono Gustav Töni, sono nato quasi sugli sci, ho sempre fatto lo sci, era la mia passione. Dopo ho cominciato a entrare in squadra nazionale, ho sciato a lungo, ho vinto delle Olimpiadi, Mondiali, Coppa del Mondo. Dopo la mia carriera sciistica sono diventato maestro di sci e nello stesso tempo anche allenatore, dove ho frequentato tantissime emozioni, anche essendo allenatore di Alberto Tomba. E poi diciamo, qui in Val Gardena ho anche dei bellissimi ricordi, dove ho vinto la mia quarta Coppa del Mondo. Questa volta abbiamo lasciato che fosse lui a presentarsi in un'intervista di qualche anno fa, un'intervista fatta con la solita tranquilla modestia che è sempre stata una delle sue più grandi caratteristiche, e stiamo parlando di uno sciatore che ha vinto tutto, Gustav Töni, capace con gli sci ai piedi di compiere imprese sportive straordinarie senza mai perdere quella calma serafica che aveva prima, dopo le gare. La puntata di oggi è stata fatta anche su sollecitazione e segnalazione di un nostro ascoltatore, Lorenzo Fabiano da Verona. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Di che generazione sei tu? Beh, io sono nato nel 66, per cui raccontiamo una storia d'Italia vero, ero un ragazzino all'epoca dei tempi. E come mai Gustav Töni? Vari motivi. Allora, uno è che sono appassionato di sci. Sì. E due, perché nel 75, il 23 marzo del 75, secondo me si disputò la madre di tutte le gare di sci, la gara più emozionante della storia dello sci alpino, che poi cambiò anche radicalmente il modo di approcciarsi a questo sport nel nostro paese. Lo sci anche da noi divenne un fenomeno di massa e cambiò tutto, nulla fu più come prima. Benissimo, e allora rimani in ascolto, peraltro Cotelli lo sentiremo tra poco anche lui. Grazie Lorenzo, buon ascolto. Grazie a voi. E per capire la storia, la carriera di Töni, dobbiamo tornare indietro al 1951, andare a Trafoi, tornante numero 46 dello Stelvio, dove Fausto Coppi, un altro grande dello sport italiano, aveva già compiuto grandiose imprese in sella alla sua bicicletta. E la leggenda vuole che lui, Gustav, nasca in una notte di tormenta, 28 febbraio, quell'inverno cadono 7 metri di neve. Il padre è un campione mancato di sci perché la guerra gli ha fatto prendere un'altra strada, vuole rifarsi con Gustav. Appena nato, giura a se stesso che porterà quel bambino a vincere l'Olimpiade. E con queste parole lo stesso Gustav Töni ricordava in un'intervista a Cheo Condina del Sole 24 Ore la sua infanzia sugli sci. Sono nato praticamente con gli sci ai piedi. I primi me li costruì mio nonno. Erano di legno e mi ricordo che ci giravo per casa. Avrò avuto 3 anni, forse anche meno. Poi sono cresciuto, ovviamente in simbiosi con lo sci. Trafoi era un paese piccolissimo, immerso nelle montagne. L'unico svago da ragazzi era sciare. Andavamo in gruppo, senza maestro o allenatore. Inventavamo nuovi percorsi. Era un modo come un altro per scoprire l'ambiente che ci circondava e diventare grandi. A 14 anni ho cominciato a fare sul serio. Mio padre mi accompagnava in giro per il nord Italia, a disputare decine di gare. La svolta venne quando vinsi il trofeo Topolino. Può sembrare un nome curioso, eppure era una delle competizioni più difficili e rinomate. Lì capii che potevo fare il grande salto. E quindi il primo colpo d'ala di Töni, proprio il trofeo Topolino, era un evento sportivo per ragazzini inventato nel 58 su consiglio di Mike Buongiorno da un giornalista, uno scrittore, un grande appassionato di sci che si chiamava Rolly Marchi, il cowboy delle nevi. E il 6 marzo del 65 Gustav Töni, che ha 14 anni e che da 11 anni ha gli sci ai piedi, quel giorno indossa, dicono le cronache dell'epoca, pantaloni scuri, maglione giallo ocra, berretto rosso di lana. Insomma, non è certo la, come dire, la, l'immagine degli sciatori di oggi con tute disegnate da architetti spaziali, no? Bene, questo ragazzino vince staccando di 2 secondi e 60 al secondo classificato. Trofeo Topolino era una cosa seria in quegli anni, era una specie di mondiale giovanile che negli anni ha lanciato molti talenti a Stenmark, Girardelli, Alberto Tomba, Beniamin Rack, insomma molti grandi atleti sono partiti dal Trofeo Topolino. Il giovane Tony straccia tutti, non passa inosservato, addirittura qualche settimana dopo Topolino, il giornalino, gli dedica un servizio definendolo dotato di una sicura tecnica. E dopo il trionfo del Monte Bondone, Gustav continua a allenarsi, a fare gare. La stagione 69-70 è ricca di successi e l'11 dicembre del 69 arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo. Si aggiudica lo slalom gigante in Val d'Isère. Lo sci italiano comincia a intravedere l'erede dell'unico grande sciatore che aveva avuto fino a quei tempi, che era il mitico Zeno Colò nell'immediato dopoguerra. A soli 19 anni Tony è la stella nascente dello sci italiano. È un ragazzo particolare perché timidissimo, riservato, al limite della reticenza con i giornalisti per esempio, ha stile e non solo sugli sci, ha una corporatura piuttosto esile, riesce a disegnare però traiettorie perfette, strettissime, forse proprio grazie a questa corporatura, perché lui non si butta sulla pista, lui calcola con precisione e con intelligenza. Gli anni 70 sono per lui quelli delle vittorie che entreranno nella leggenda. Nel gennaio del 70 domina la mitica 3-3 di Madonna di Campiglio, vince i due giganti e arriva secondo per un soffio nello slalom. Però è l'anno successivo che Tony diventa veramente un fuoriclasse, perché la Coppa del Mondo del 71 è sua ed è solo la prima di un tris incredibile. Sono gli anni delle rivalità, sempre sugli sci, con Pierino Gross, con Karl Schranz. Tony è un vero talento, anche quando non vince è sempre tra i primi, diventa un mito pur rimanendo se stesso. La televisione si accorge di lui. Ecco una sua intervista alla Domenica Sportiva, siamo nel 72. Quando è lontano da casa provo molta nostalgia per il suo paese, Trafoi. Proprio molta, molta no, ma un po' sì. Un po' sì. Che cosa ama di più del suo paese? Non so, la tranquillità, montagne, il più alto abbiamo qui l'Ortles. Poi abbiamo la parete di Trafoi, poi tre malacci, dopo lì è il Geister e l'Ivrio, dove si scia anche d'estate. Avete progetti per il vostro Trafoi? Sì, abbiamo in programma una funivia che arriva a Livrio da Trafoi. Chi è il suo migliore amico? Non lo so, Ghilì. Chi è Ghilì? Ghilì è il nostro prete. Che importanza attribuisce lei alla sciolina, rispettivamente in speciale, in gigante oppure in discesa libera? Ma in speciale la sciolina non c'ha mica tanta importanza, c'ha pochissima importanza. In gigante invece è già di più, perché se capita neve fresca e un piano così, allora arrivare anche molto importante. Fino per esempio al? Non so, 20%, 30%. Ecco, in discesa libera? In discesa libera è ancora più importante, quasi importante sempre, e dopo soprattutto se è molto da scivolare, allora è importantissimo. Per esempio può arrivare anche al 50% di importanza. Sì, sì. Insomma, il suo miglior amico è il prete del paese e le domande riguardano la sciolina. Tony risponde con timidezza, con candore. È un mondo veramente lontano dallo sport spettacolo a cui siamo abituati oggi, con degli sportivi super sponsorizzati, spesso anche un po' cafoni, ridondanti nei modi, nei gesti e nel linguaggio. Bene, Tony era esattamente un'altra cosa. Lui era uno che sapeva sciare. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando dello sci, anzi dell'era d'oro, l'era dorata del grande sci italiano, quindi degli anni 70, quindi di Gustav Tony. anni in cui gli atleti non potevano avere sponsor, dovevano restare dilettanti. Tony correva per le Fiamme Gialle, cioè la guardia di finanza, aveva sci da 2 metri e assolutamente più pesanti di quelli di oggi. Insomma, lo sci dei primi anni 70 non era uno sport di massa, gli atleti non erano i personaggi pubblici che vediamo oggi, e sciare in quegli anni era una cosa da pochi, ricchi, benestanti o comunque, se no, persone del luogo. Fu proprio Tony, insieme ai suoi compagni della nazionale italiana, a farlo diventare uno sport per tutti. E io, che ero ragazzino, che non ho mai sciato e mai scierò perché sono freddoloso, mi ricordo i momenti in cui quelli della mia generazione correvano a casa perché c'era la Manche da Kitzbühel, da Valselva di Vargardena, eccetera. Ricordo me stesso saltare sul divano, gioire, piangere, ridere, abbracciarmi con gli amici per le vittorie di Tony e della Valanga Azzurra. Fu una vera e propria mania che cambiò il rapporto della gente nei confronti dello sci. Peraltro era anche uno sport televisivamente molto spettacolare. A proposito di nazionale italiana di sci, e Tony e i suoi compagni hanno un appuntamento importante, perché siamo arrivati nel 72. Ci sono le Olimpiadi invernali a Sapporo in Giappone. Per il papà di Gustavo, Giorgio, che è stato il primo allenatore, primo fan del figlio, si avvera il sogno, e sentiamolo in un'intervista del 72, poco prima dei giochi invernali. E lei, venga qui signor Tony, che ci faccia inquadrare, questo è il grande maestro, il campione del mondo, Gustavo Tony. Che difetti ha ancora Gustavo da correggere? Ma gira ancora un po' male a sinistra. Signor Tony, lei ha fatto dello sci agonistico? Sì, ho fatto sci agonistico anche, insomma, cioè da giovane, però purtroppo la guerra ci ha portato via gli anni migliori. È ragionevole pensare che lei, handicappato appunto dalla guerra, abbia riversato le sue ambizioni agonistiche sul suo figlio? Sì, insomma, certamente quello che non sono riuscito, non era possibile fare io, ho cercato di passare su mio figlio, e quello forse è il mio grande, la più grande soddisfazione che ho avuto. Sentite come quest'uomo confessa al grande Alfredo Pigna, peraltro, con pudore, una gioia così incredibile, come deve essere la gioia di avere un figlio che va alle Olimpiadi da protagonista. Insomma, lui arriva ai Giochi Olimpici di Sapporo con la Coppa del Mondo in tasca. E in Giappone avvengono delle Olimpiadi particolari perché segnarono la storia. Furono i primi giochi olimpici invernali fuori dall'Europa o dal Nord America. Furono gli ultimi in cui vennero usati gli sci in legno. Dall'edizione successiva saranno soppiantati finalmente, direi, da quelli in fibra di vetro, in materiali sintetici. Nelle gare che precedevano i giochi, Tony non aveva brillato molto, aveva conquistato piazzamenti, era a digiuno di vittorie. Aveva rimediato anche un infortunio in allenamento al Sestriere. Tony dunque parte per il Giappone, che non è certo favorito. E invece quelle del 72 in Giappone, al di là di ogni previsione della vigilia, sono le Olimpiadi che consacrano il mito di Gustavo Tony. I giornali dell'epoca, prima della partenza, se lo domandano: saranno le Olimpiadi di Tony? Si chiede per esempio La Stampa. Il ragazzo silenzioso di Trafoi non delude, perché vince lo slalom gigante, che allora si disputava in 2 giornate. Dopo la seconda manche, confessa lui stesso di aver avuto paura, di essere andato troppo piano, di aver sbagliato qualcosa, ma la vittoria è sua. La Gazzetta dello Sport lo incorona definitivamente erede di Zeno Colò, uno degli sciatori più forti di sempre. Fu il primatista mondiale del chilometro lanciato, campione olimpico negli anni 50. Bene, il nostro Gustav, titolo nei giornali austriaci, perché Gustav è in quella zona franca che alcuni chiamano Alto Adige e altri chiamano Sud Tirolo. Bene, lui comunque sale orgogliosamente sul podio con il tricolore. E a chi gli chiede se è soddisfatto risponde: abbastanza, è una gran bella vittoria. Mi piacerebbe, ora che ci ho provato gusto, portarmi via anche lo slalom speciale. Però la doppietta non gli riesce, perché c'è un altro colpo di scena. Uno spagnolo che si chiama Francisco Fernández Ochoa scalza Gustav dal gradino più alto del podio. Tony arriva secondo, anche qui una stranezza, uno spagnolo che vince uno speciale in Giappone. Secondo arriva Gustav, terzo il cugino Rolando Tony. Ma sentiamo una parte della telecronaca in giapponese della discesa dello spagnolo. Francisco Fernández Ochoa, これが1回目の最高タイムをマークしていますので54秒92で入ればいいところ20秒で第一の壁。 Tony ormai è un mito, non ha neanche il tempo di godersi la gloria dopo le Olimpiadi che nella stagione 72-73 conquista la terza Coppa del Mondo generale e la prima di slalom speciale. Sale 7 volte sul podio, 3 vittorie, tra cui quella nel mitico gigante di Adelboden, e 3 secondi posti, e poi un terzo posto sono gli anni della cosiddetta valanga azzurra. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Massimo Di Marco usa per la prima volta questa espressione per indicare la nazionale italiana di sci alpino del 74 durante la gara di slalom gigante a Berchtesgaden nell'allora Germania Ovest. Una gara che entrò nella storia perché gli italiani riescono in un'impresa che non era mai riuscita a nessuna nazione, perché il podio recita così: primo Piero Gross, poi Gustav Töni, Erwin Stricker, Helmut Schmalz e Tino Pietro Giovanna. A dispetto anche di qualche cognome, siamo a 5 atleti italiani nei primi 5. Ecco uno dei servizi dell'epoca sulla gloriosa valanga azzurra. Di qua e di là del Piave ci stava un'osteria. Scendono dalle Alpi ma amano il mare. E ogni anno tornano sul mare a caccia di iodio e di distensione. Sono i ragazzi della valanga azzurra di sci e questo è uno dei pochi momenti di relax. Avete visto De Chiesa? Ecco Piero Gross. Poi c'è Franco Bieler. Laggiù in fondo, sotto il castello di Prua, c'è Gustavo Töni. Insomma, ci sono tutti. Fausto Radici, Bruno Nockler, Diego Amplazzo, Berfranc, Tino Pietro Giovanna. E ci sono i nuovi arrivati che vengono dalla Coppa Europa. Bruno Confortola e Presazzi. Beh, niente male, tutti personaggi di primo piano, anche se non come Gustav Töni o Piero Gross. Il 74 è l'anno dei mondiali di St. Moritz e come dicevamo c'è questa rivalità tra l'alto atesino Töni e il piemontese Pierino Gross, due atleti molto diversi tra loro. E c'è uno slalom speciale memorabile il 10 febbraio, Gross è primo dopo la prima manche e Gustav ottavo a un secondo e mezzo, che nello sci non è poco. Ma Töni, che ha vinto 3 coppe del mondo, non ci sta, è protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda manche. Sentiamo la telecronaca dell'epoca. Fa impressione vederlo scendere Gustavo Töni, 26-26, migliore intertempo realizzato fino adesso, nettamente abbassato da parte di Gustavo, speriamo che tenga Gustavo. Speriamo che tenga, sta scendendo come un vero campione, ha messo fuori i suoi artigli, incredibile l'azione di Töni, fantastica. Abbiamo mai visto scendere così Gustavo Töni? E Töni quei momenti se li ricorda molto bene, perché per lui quella è stata una seconda manche memorabile. Scende in modo perfetto con la pettorina numero 6, una tuta attillata, il cappellino di lana, perché ancora si usava quello, e la maschera. Io non avevo più niente da perdere, perché ottavo, settimo, sesto, no? Infine ai mondiali contano i primi 3 posti. La prima curva, insomma, si sentiva che andava tutto bene, ho fatto, insomma, andava come un sogno praticamente, quando le curve, insomma, si riescono proprio a finire nel momento giusto, parca, non si fa tanta strada. Töni quindi rimonta, vince l'oro e scende talmente forte che mette forte pressione a Piero Gross, che era primo in quel momento. Così Gross fa alcuni errori, cade, esce dalla pista e non gli rimane che piangere di rabbia e delusione. Gli amanti dello sci lo sanno che questa è una manche entrata nella storia. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando le gesta di un campione di 30-40 anni fa, però un uomo d'altri tempi, Gustav Töni, un uomo schivo, timido, un uomo semplice che ha dato vita allo sci italiano assieme a Cotelli e a tutta la valanga azzurra, e che in qualche modo ha fatto sì che milioni di persone cominciassero ad aver voglia di sciare. Un uomo entrato di diritto nella leggenda. Ma dobbiamo ancora parlare di un'altra gara di Töni entrata di diritto nella storia, oltre a quella per esempio di St. Moritz. Siamo nel 74-75, Töni ottiene il suo miglior piazzamento in discesa libera, oltre allo speciale al gigante si cimenta in discesa libera e arriva secondo sulla mitica pista di Kitzbühel dietro al super specialista, al re della discesa libera di quegli anni, che era Klammer. Su quel tracciato, il più difficile, il più insidioso del mondo, Gustav Tönni è secondo per soli 3 millesimi di secondo, un'approssimazione che negli anni è diventata 1 centesimo di secondo, un soffio. E 1 centesimo di secondo è il titolo del film liberamente ispirato a quella discesa libera, un film di Duccio Tessari interpretato proprio da Tönni nella parte di se stesso. Accanto a lui Antonella Interlenghi, conosciuta anche come Antonellina. Cosa hai detto? Cosa ho detto? Che mi vuoi bene? È la prima volta che me lo dici così, dritto dritto. Scusa, mi devo essere distratto. Beh, diciamo forse non è proprio Marlon Brando. Ecco come Tönni ricorda le riprese del film girato dopo il suo ritiro, come ricorda questa scena, la scena del bacio con la bella Antonella Interlenghi. Se si parla di gelosia, forse erano un po' le figlie che quando ci sono queste, quando abbiamo visto la prima volta il film, che con queste scene così che io ero vicino a lei così, allora loro forse erano più invidiose, un po' gelose di sto papà che faceva, stava con sta Antonellina. No, il bacio sicuramente è stato una cosa, sì, fa parte del film, e certo che... La stagione 75-76 è l'ultima in cui Tönni è in vetta, perché l'anno successivo e il suo rendimento incomincia a calare. Prima però lui ci regala ancora emozioni uniche. Per esempio il 23 marzo 75 a Ortisei in Val Gardena, perché lì si assegna la Coppa del Mondo e tutto si decide in una gara particolare, perché sono vicini nel punteggio lui e l'astro nascente Ingmar Stenmark, svedese. Tutto si decide con una roulette russa che è lo slalom parallelo. Una sfida Italia-Svezia seguita in TV col fiato sospeso. 20 milioni di telespettatori italiani in quel momento sono incollati ai televisori, che sono ancora quasi tutti in bianco e nero. Aspettano il verdetto. È una lotta all'ultimo centesimo, fino a che Stenmark inforca e cade. Tönni conquista la sua quarta e ultima Coppa del Mondo di sci alpino. A tenderlo al traguardo ci sono 40.000 persone. E quello storico parallelo sulla discesa della Saslong è anche la sfida tra due commissari tecnici italiani, Mario Cotelli ed Ermanno Hermann Nögler, allenatore gardenese di Stenmark. L'atmosfera è veramente tesa a tutti i livelli, però alla fine Tönni festeggia con Cotelli. L'anno successivo, nel 76, ci sono ancora vittorie e ancora medaglie d'oro e d'argento da festeggiare, questa volta ai Giochi Olimpici Invernali di Innsbruck. Personaggi come Tönni vengono circondati da aneddotica, dal mito. Addirittura si racconta che una volta Kitzbühel perse uno sci, riuscì a rimanere in piedi e arrivare in fondo. E questa storia in realtà ha un fondo di verità, ma è una leggenda, perché lui ha ammesso, Tönni, di avere sì perso 2 volte gli sci, di non essere caduto in pista, però di non averla conclusa la gara. E per parlare di Gustav Tönni abbiamo con noi quello che è stato il suo allenatore storico, il mitico Mario Cotelli. Buongiorno. Buongiorno. Ce la ricordiamo noi, almeno quelli della mia generazione, nelle interviste a caldo e anche in tutti i servizi sulla preparazione di quella valanga. È un periodo storico molto bello, 45 anni fa più o meno. E tutta l'Italia scopriva lo sci grazie a quel periodo. Abbiamo lasciato un mito. E stiamo volendo ancora adesso di questo ricordo. La cosa che mi soddisfa di più è questa. Senta, com'era Tönni come atleta? Aveva una grande dote, quella di lavorare molto, però la dote più importante che aveva era quella della dote del fuori classe, cioè quello che riesce anche nei momenti difficili, momenti che sembrano, mai sembra tutto finito, a tirar fuori la trampata vincente. Quindi lui è passato alla storia perché ha segnato 3-4 momenti storici che la gente si ricorda, perché recuperando praticamente da situazioni impossibili andando a vincere una. E lui è sempre stato capace di trovare dentro di sé quel qualche cosa in più nei momenti in cui c'era bisogno. E non perdersi d'animo, perché c'erano delle... la differenza fra fuori classe e il campione. Lui ha sempre corso per la Coppa del Mondo, corre per la Coppa del Mondo allora, come corre oggi per un Giro d'Italia, un Giro di Francia. Sì. Infatti lui ha vinto pochissimo, ha vinto 17-18 gare, però ha vinto 5-4 Coppe del Mondo. E la sua vittoria più bella, quella proprio dell'esplosione, immagino più sua, perché Tony non, insomma, non me lo immagino fare giri di campo urlando. La sua ultima Coppa del Mondo di Val Gardena, quando ha battuto Stemmer nel parallelo finale. Nel parallelo finale, sì. Oppure anche la prima, che nel 1969, che aveva 18 anni, a Val d'Isère, ha battuto tutti, Tony è stato un mito molto di più di campioni di oggi che sono più glam che altro. Perché l'Italia, al di là delle vittorie, si era tutta innamorata di Gustavo Tony? Eravamo in un periodo storico particolare, perché eravamo a 25 anni dalla fine della guerra. Sì. Quindi l'Italia veniva fuori dalla fame, dallo star male, cominciava a star bene. E la Valanga Azzurra ha rappresentato una bandiera traino per l'Italia, per cui nella Valanga Azzurra hanno visto un traino per il nostro paese. Questo è stato molto importante, ma la cosa più importante di tutti per la gente è stato il fatto che hanno creato dei capolavori anche in situazioni impossibili. E non dimentichiamo che lo sci di allora rispetto a quello di oggi era molto più romantico, ma soprattutto era molto più difficile. Certo. Perché oggi piste facili, piste ben lisciate, allora bisognava saper affrontare adeguatamente anche certi percorsi che erano pieni di tranelli, e questo faceva inorgoglire la gente. Grazie Mario Cotelli. Grazie, è stato preziosissimo, e complimenti per aver contribuito a farci sognare per un periodo della nostra adolescenza. Grazie. Grazie a lei. Gustav Tony ha vinto tanto, ha vinto tutto, rappresenta ancora l'Italia ai giochi invernali di Lake Placid dell'80 e poi si ritira definitivamente. E il bilancio è questo: 69 volte salito sul podio con 24 vittorie, un oro e due argenti olimpici, 5 ori mondiali, 4 coppe del mondo. È difficile che uno così possa stare lontano dagli sci. Infatti, dopo il ritiro dalle competizioni, la sua nuova sfida si chiama Alberto Tomba. Completamente diverso da lui. Intanto arriva da Bologna, è estroverso, è aggressivo. Eppure Tony instaura con lui un ottimo rapporto. Lo allena per 9 anni, dall'89 al 96. Nel 2009... Tony, che intanto è diventato un pochino più spigliato in pubblico, ricorda Tomba così ricevendo un premio, il premio Fair Play. Ma diciamo, con Alberto ho passato dei bellissimi anni, anche non sempre facilissimi, però alla fine diciamo i risultati c'erano, e diciamo quello sicuramente tutti si ricordano ancora tutte le sue vittorie. Insomma, anche a me personalmente fa molto piacere di essere stato uno, di avergli dato una mano per questo. Ma era più difficile fare l'atleta o il direttore tecnico? Ma è più difficile fare il direttore tecnico, l'atleta è molto più facile. Però vedo che crescendo hai anche così imparato a parlare un po' di più. Ma no, ma non tantissimo. E sentiamo invece come proprio lui, Gustav Tony, durante la trasmissione Olimpia di Radio 24 ricorda le Olimpiadi di Calgary dell'88, dove Tomba, allenato da lui, vince 2 medaglie d'oro, una nello slalom speciale. E per trasmettere quella gara, Rai 1 interrompe anche il Festival di Sanremo, condotto quell'anno da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Certamente che è partito nella Coppa del Mondo, nelle gare di Coppa del Mondo, fortissimo, e insomma, ha vinto praticamente quasi tutte le gare che c'erano fino ad arrivare alle Olimpiadi, e era talmente forte che non ce n'era per nessuno. Chi Alberto era? Era un Alberto che sentiva la pressione? Certo, c'era un grandissimo interesse dietro, insomma, era molto perseguitato anche da giornalisti, e non era neanche facile per chi ci lavorava insieme, però ha sempre dimostrato che più tensione gli era addosso, meglio andava. Immagino che la sua esperienza ebbe un peso decisivo, no? Diciamo, la base viene già messo quasi l'anno prima ai mondiali di Gran Montana, dove è arrivato terzo in slalom. Ci si aspettava già qualcosa da lui. Poi diciamo, il lavoro che ha fatto, alla fine era più forte in quel periodo, quello che meritava di più di vincere le Olimpiadi. E allora sentiamolo quel trionfo di Tomba a Calgary, un trionfo che è certamente anche un trionfo del suo allenatore di quegli anni, cioè del nostro protagonista Gustav Töni. Sì, da quel festival di Sanremo che hanno, si sono collegati col Canada, anche ecco da lì, 20-25 milioni, l'audience che tutti mi dicono, ma ti rendi conto che hai fermato? No, no, ho fermato, sono collegati loro, io non c'entro niente, per me anche, anzi, era meglio che non veniva a sapere che c'erano... Era in diretta sulla Rai. Niente, ho portato tanto odio e tanti tifosi e scommesse nei bar, già da portavo via del calcio, cioè le pagine, le prime della domenica, sai, tutti. Invece c'era qualcuno anche di giocatori che andava con la TV negli spogliatoi, pensavo, voleva vedere proprio l'orario, l'una e mezza, le due, prima della partita. Questo mi ha commosso, è bello, bello. Che oggi non, ovvio, non c'è più, non è cambiato un po' la società, tutto, anche un po' lo sport. E tutta l'Italia festeggia la vittoria, compreso l'Ariston di Sanremo, dove intanto Massimo Ranieri vincerà con Perdere l'amore. Dopo Tomba, Gustav Töni allena la nazionale italiana, è direttore tecnico della squadra maschile, poi diventa direttore generale della squadra maschile e femminile, e nel frattempo le sue tre figlie gli hanno regalato 8 nipotini. Nel 2006 le Olimpiadi lo chiamano ancora, perché solo lui può portare la bandiera italiana alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali a Torino. Oggi Gustav Töni ha trasformato la casa dove è nato in un albergo, gestisce assieme alla figlia l'hotel Bella Vista a Trafoi, al passo dello Stelvio. Così racconta durante un'intervista a Sereno Variabile. È casa mia qui, è l'Ortles, la mia montagna preferita, e poi anche lo Stelvio qui, insomma, dove ho imparato anche a sciare. Senti, com'è cambiata la tua vita in questi ultimi anni? Ma negli ultimi anni, da quando ho smesso di sciare, insomma, ha cambiato, mi sono reso nell'albergo, abbiamo un albergo qui sotto ai piedi dell'Ortles, e si gestisce questo insieme a mia famiglia e alle mie figlie, insomma, cambiato in quel modo. Quindi accompagni? Dopo accompagno un po' i clienti d'inverno a sciare, d'estate andiamo a passeggiare e ci godiamo questa bella natura. Che cos'è che rende così affascinante questo passo? Ma affascinante un po' è la zona qui, tutto l'attorno, tutte le montagne, poi anche, diciamo, abbiamo questa strada spettacolare che è già più di quasi 200 anni che è stata fatta, è proprio panoramica al massimo. E la sua giornata tipo oggi comincia molto presto, si alza per primo, si mette al lavoro nell'albergo, dà addirittura una mano per preparare le colazioni, però soprattutto ovviamente si dedica ai clienti, li accompagna per escursioni, risponde agli ospiti che ovviamente lo tempestano con domande sulle gare, sulle vittorie. Quando vuole rilassarsi beve un bicchiere del suo vino preferito, che è la Grain, quindi se ne intende. Usano il Lagrein in albergo come vino della casa. Se oggi va sulle piste lo fa con i suoi 8 nipoti, perché l'amore per lo sci e la montagna non l'ha mai abbandonato. Negli ultimi anni ovviamente ha ricevuto molti premi, perché la gente non si è dimenticata di lui. Con la sua naturale ritrosia, con l'umiltà, ne hanno fatto un personaggio molto amato, tanto che la televisione lo ha sempre cercato, l'avrebbe voluto in molti programmi che lui ha sempre rifiutato, perché questa è la cifra stilistica di Gustav Töni, un atleta capace di straordinarie imprese sugli sci, di rimonte spettacolari, di gare incredibili, di grinta, di rabbia, eppure rimanendo sempre un uomo semplice. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare questo colpo d'ala, volare in alto o scivolare tra le porte di una gara di sci, fare cose che hanno lasciato un segno, addirittura rivalutare e far riscoprire a tutto un paese la bellezza dello sci. Sono storie di chi è caduto ma si è rialzato. E se avete dei consigli da darmi, se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure visitate la nostra pagina, venite a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.